conosco. Mi vorrebbero giù, vorrebbero il mio posto. Io me lo tengo stretto ad ogni costo e non do il mio rispetto ad ogni stronzo. Non ho bisogno di voi. Affondare. Non ho bisogno di voi. Voi che chiedete come va, ma poi non mi interessa manco. E così che mi date voi. Voi mi entrano da un orecchio e mi escono dall'altro. Non ho bisogno di voi. No, voi. Non ho bisogno di voi. Voi. Non ho bisogno di voi. Voi. Non ho bisogno di voi. Voi. Non ho bisogno di voi. Tutto solo in me quando a parte a me. Sai, non lo faceva nessun altro, perché qua tutti cominciano a girarti intorno proprio quando inizi a non averne più bisogno. Quando sali tutti vogliono aggrapparsi, quando scendi ti rispondono di attaccarti. Meglio capire subito chi hai davanti e dividere chi è come te da chi è come gli altri. È sempre meglio non fidarsi. No, no, no. Meglio alzarsi le mani che darsi da fare. Sai, qui siamo in tanti. Vuol vederti affondare. Chi sono questi? Io non li conosco. Mi vorrebbero giù, vorrebbero il mio posto. Io me lo tengo stretto ad ogni costo e non do il mio rispetto ad ogni stronzo.